su, su, su e poi giù in picchiata. Ad ogni primavera il castello sembrava rifiorire alla luce del sole, che faceva brillare i fondali smeraldini e le ripide scarpate costellate dalle grandi siepi di rosmarino selvatico. In queste giornate il falco amava scommettere con se stesso. Con queste correnti calde posso arrivare in picchiata fino al vecchio rudere sul promontorio e tornare indietro fin sopra il tetto del torrione prima che la risacca abbia fatto avanti e indietro per 3 volte. Era un falco audace e pieno di spirito, nonostante che la zampina destra fosse rimasta piccola per via di un brutto incidente che gli era capitato quando aveva appena 3 mesi. Sua madre si era dovuta allontanare in cerca di cibo e lui, sporgendosi dal nido, era caduto giù. Dopo l'incidente, la zampetta era rimasta piccola. Trattandosi di un falchetto marino, questa menomazione avrebbe potuto essergli fatale. Procacciarsi il cibo per un rapace non è semplice se hai una zampa artigliata poco robusta. Ma lui era divenuto così abile nel volo e così veloce in picchiata che oggi lo si sarebbe potuto dire il più grande falco di tutta la costa. Abitava nel castello aragonese, proprio di fronte al paesino di Le Castella, in una splendida baia riparata dal vento, dove la natura la faceva da padrona. Ogni estate la baia si riempiva di turisti, ospiti di un villaggio immerso nel verde, a poche centinaia di metri dal piccolo paesino, proprio di fronte al castello, che, come tutti sanno, sembra galleggiare sull'acqua. Quel giorno la luce del sole rendeva di un giallo brillante le vecchie mura del castello. Era una giornata meravigliosa. E allora via! Un piccolo salto sulla zampa sinistra e 4 o 5 forti battiti d'ala. Il falco prese velocità, virò verso est, planando sopra i merli della cinta muraria del castello, dove sapeva che l'aria l'avrebbe spinto di colpo verso l'alto. E poi ecco il mare, e di fronte, leggermente a destra, il piccolo rudere sulla sommità del promontorio. Ancora 2 o 3 forti colpi d'ala e sarebbe arrivato, ma una sorpresa lo attendeva. Di colpo, dai bassi cespugli di rosmarino, ecco spuntare un uomo. Si trattava di un ragazzo e correva saltando sulle rocce bianche a picco sul mare. Il falco lo osservò con la sua vista acuta, poi virò e planando si posò su un ramo a pochi metri dal ragazzo che correva piangendo. «Che cos'hai, giovane umano?» chiese subito al ragazzo. «Lasciami stare, grande falco, lasciami solo!» disse il ragazzo con tono disperato. «Questa baia è sotto il mio sguardo ogni giorno e non mi va che qualcuno pianga. Qua sono tutti felici!» rispose il falco che, come abbiamo detto, aveva un certo spirito. «Io non sono un turista. Abito qua e domani dovrò partire per un lungo viaggio. Sto piangendo perché non voglio abbandonare la mia famiglia e i miei amici», disse il ragazzo cercando di calmarsi. «Tu hai grandi ali e forti artigli. Che cosa puoi temere?» Poi il ragazzo vide la zampa offesa del rapace, abbassò il viso e disse: «Scusa, non avevo visto». «Non ti preoccupare», fece il falco con una gran risata di petto. «Ogni giorno staccarsi dalle mura del castello è difficile e la mia zampa destra non mi aiuta un granché. Ma poi, una volta in volo, osservo la meraviglia sotto di me e sono felice». Intanto il ragazzo aveva smesso di piangere ed ascoltava in silenzio. Il falco continuò. «Vedi ragazzo, una cosa è certa. Io sono nato per volare, così come tu sei nato per conoscere». Il ragazzo si asciugò le lacrime e sorrise, mentre con un colpo d'ali il grande falco si staccò dal ramo e salì alto nel cielo. Il giorno dopo il ragazzo partì tranquillo, ripensando alle parole del falco. Mentre il treno correva, il giovane vide scorrere il mare attraverso il finestrino alla sua destra. Poi di colpo apparve la figura del grande rapace. Volava più veloce del treno, planando sulle onde. Il ragazzo si ripeté: «Sì, io sono nato per conoscere, come tu sei nato per volare». Dall'alto il grande falco strinse la zampina più piccola e si disse: «Farò il giro del castello con 3 soli colpi d'ala». E così fece.